c'ha grandi risorse, grandi cose, un bel denaro. Tu immaginati che ha comprato il 40% delle azioni della Eone, quindi della ex Endesa, a Fiume Santo, il 40% della Diaciona, proprio il 60% di Eone, quindi siccome sono due multinazionali, una multinazionale tedesca e una multinazionale spagnola, hanno fatto una fusione dove gestiscono anche gran parte di Fiume Santo. Una grandissima società, io ci ho già lavorato, ti posso dire che non sia un dipendente statale, non regionale, statale, ti arrivi a puntuare ogni mese che non c'è Cristo, capito? È una grande società. E quello è tutto il personale che oggi a mano appartiene alla depurazione e passa con la ciola, non cambia niente. Nel modo più assoluto, intanto, a mano è a capitale pubblico, in grande difficoltà, però è sempre un SPA, perché è privata, e a capitale pubblico è privata, questa è una multinazionale, ma se è più del capitale pubblico, perché c'è anche capitali sociali pubblici, quindi sta andando a migliorare, non a peggiorare. Positivo, positivo. Riprendito, ti abbiamo lasciato un po' in bianco. C'è già interessante la questione. No, io non ho capito, ogni volta che parla l'ha detto, specialmente di questi impianti, di queste cose, io non ho capito. Fa sempre piacere ascoltare le persone che si interessano, che fanno e soprattutto che mettono in guardia per certe cose. E poi già si vede, e si vedono come sono, infatti come lui li ha descritti sono. Positivo. Fa sempre piacere ascoltare. Capo, bello. Avanti, grazie. Uno quando parla si deve far capire, non può dire fesserie, bisogna spiegare bene le cose, se si sanno, se no, uno non è stato zitto. Siccome io, grazie a Dio, la mia esperienza con queste grandi società me la sono fatta lavorando anche fuori, quindi posso tranquillamente esprimermi per farmi capire. È una grandissima società, tu. Grandissima a tutti i punti di vista, anche perché ha dei capitali pubblici anche lei, dove quando gestisce fa delle fiduzioni per poter garantire sia al comune o alla regione, perché anche dei grossi appalti regionali, non solo qua in Sardegna, che andrà a prendere fra un po', ma già dove sta operando, come ti ho detto prima, addirittura il portabilizzatore e il depuratore di Roma, che stiamo parlando della capitale d'Italia, ma stiamo parlando della città di Sassi. Quindi tu hai calami treni. Antonio. Un computer c'è. Non ti sa la vita di Pusco. Io lo so fare, ho detto, ma se no ci abbiamo le qua computer, ma stai facendo le cose del boccaccio. E niente, quindi ti dicevo che avendo questi grossi impianti che gestisce, quindi con dei capitali pubblici come ha attualmente, è chiaro che fa delle fiduzioni per poter entrare a far parte di questa società, la paura, capito? Immaginati che la mia società, per non fare nomi, so perché dove sono, questa lì adesso è che questa è una società, non è che allora hanno messaggio che se lui ci veniva la gomma di vostra mano, allora ha chiesto la mia società per poterla far entrare, ha chiesto una fiduzione di 1.200.000.000 delle vecchie lire, e non ha avuto nessun problema. Ha risposto, perché ho visto le carte, quanto voleva per gestirla tutta in prima persona e togliersi a mezzo la balla della mia società, cioè di fare l'offerta lei, quanti miliardi gente, è vero, te l'ho detto. Non ne hanno problemi, no? C'è ancora la cartella all'ingresso, all'ingresso lì dell'androne, a Porta Maiore, c'è un'acqua, sì. Chi è il cartello? Il cartello, quando tu entri per entrare negli uffici, non sei entrato giù, non hai visto giù dove sono i laboratori, non hai visto, il cartello c'è ancora, con tutta la mappa dove c'è scritto Acciomago in grande. Guarda, sono entrato oggi, sono entrato dalla parte di dove ci sono i bagni di spogliatoi, non sono entrato da quello principale. No, ecco, perché se entri nell'androne principale dove ci sono assediti tutti gli uffici dei dirigenti, che poi non ci sono mai in autobus e porte, in tutte le porte c'è scritto torno subito, dopo esci e sagata ne mai ti leghi, questo non succede da oggi via. Invece dall'altra parte a destra ci sono tutti i laboratori. Il primo è il laboratorio di chimica, l'altro è il laboratorio di analisi, sempre chimici ma a settore, quindi uno trattamento a fanghi, l'altro laboratorio chimico di percentuale di tutti i reagenti, eccetera, sono tutti i laboratori. Lì proprio di fronte c'è un cartello grande grande, dove c'è scritto costruito, in grande c'è scritto Acciomacqua, Baicrivesa. E poi c'è tutta la mappa dell'impianto fatta da Cerona, molto molto bella. È una grandissima cosa, veramente. Ma poi, allora, questa società spagnola ha 800 impianti in tutto il mondo, Italia e estero. E quando c'ero io ci ho fatto 3 anni, anzi 2 anni e mezzo, 3 anni pieni, sì. Con l'ultima busta paga dell'ultimo stipendio, perciò avevo avvisato che finiva la conduzione, che quindi lasciavamo ovviamente l'impianto, ma non è così, è stato perché dalle prese a Palma noi siamo rientrati immediatamente con loro. A me mi è arrivata la busta paga del mese proprio che avevo finito, assieme alla busta paga anche la liquidazione dei 3 anni, si vuole difendere in chi va più in tempo senza problemi. Ora ha proprio visto con i miei occhi, allora erano nel, se ricordo quando sono 2000 giorni, 2005, può essere, non te lo ricordo, quando era per testare c'era ragione, quando riesci, riesci di più, 2008, 2008. Quindi al 2008 dovrei fare 4.700 dipendenti a tu. Ehi, ya sono pochi. Beh, sono pochi di te, no? Che mesire, Buono, buono. Ma io ce l'ho fatto un mesirino, essendo in te. Ehi, qua, non voglio esprimermi, già te lo dico molto chiaro, ma diciamo che il 90% è già deciso, c'è ancora questo 10% perché dove sono ho una buona reputazione, diciamo, per capirci, mi vogliono bene, quindi mi hanno dato un grosso incarico molto importante, che risalgo 4 capelli, e quindi non voglio deluderli. Però diciamo che il 90% è già deciso. È già deciso anche perché mi hanno contattato loro, proprio oggi mi hanno contattato. Mi hanno contattato oggi dicendo appunto se ero disponibile, le faceva piacere se rientravo con loro. Che non si sono dimenticati il mio nome, questo, sai. Ma loro fa sempre piacere, no? Aspettavo stasera. Ma onore e soprattutto piacere, perché non si sono dimenticati di un bravo operaio. Ebbene, in effetti voi si toglie. È onore e piacere, cavolo, ci mancherebbe altro. Facciamo riprendere a torre, avanti Tori! È proprio così. Ti hanno chiamato, vuol dire che tu gli hai fatto, mi sei rimasto di buona impressione. Poi io nel lavoro sono una persona molto, molto, non si usa più, però sono molto attento, cioè mi hanno insegnato, perché mi hanno insegnato a non avere paura di chiedere, e con questo mi sono fatto grande. Non mi hanno mai nascosto niente, i colleghi, i miei dirigenti, i miei responsabili, perché sono talmente di quelli che assida la gente, no? Quando vede una cosa che non ha mai visto, vuole che me la spieghi, cioè me ne dici qual è il funzionamento, qual è il processo di questo impianto, perché funziona così, come mai ci va con la gente, quando ce ne va, come si diluisce, come si gestisce tutto. E non è vergogna, non è assolutamente vergogna chiedere. E quindi chiedendo e imparando dagli altri e facendoti segnare soprattutto le cose, riesci ad apprendere e poi a far capire tu agli altri quando ti danno qualche incarico, come avevano dato a me, perché anche con la Ciona io ero conduttore di impianto, quindi gestivo con un altro mio collega tutta una bella fetta di impianti dove sempre in quella zona, quindi per il Fugasse, Castel Sardo, le Ogeri Incanti, tutta la parte della depurazione, e grazie a Dio non ho mai avuto problemi. Oggi come oggi mi sono rimasti sempre il numero di telefono dei miei responsabili, che sono tutti ingegneri, ci sono ingegneri idraulici, ci sono ingegneri meccanici, ci sono ingegneri chimici, che non è cosa da poco, che hanno l'età molto, ma molto inferiore alla mia, quindi tu immaginati che cari che sono. Siamo rimasti in buonissimi rapporti perché ho dimostrato di avere capacità di lavoro, non dico bravura, perché bravo non è nessuno, c'è sempre da imparare, anch'io ho ancora tante cose da imparare, però mi posso vantare che mi piace il lavoro e quindi lo faccio con molta serietà, e allora interessano quelle persone lì. Io non mi sono mai assentato al lavoro, solo una volta quando ho avuto il colpo della troia che mi hanno dovuto portare a casa, perché sono sceso dentro un pozzetto per agganciare la pompa e invece di tirare sulla pompa la gruetta ha dovuto tirare su a me. Quello è brutto questo, il colpo della frega, mamma mia, è bruttissimo quello, e poi dopo le cose da dicendo, la stessa cosa la faccio io quando per esempio vado dal meccanico e porto il scambio. Io non sono un membro di guardo, porto e non guardo cosa sta facendo. Io quando porto la cosa guardo e cerco di capirne il segreto, in modo da poter acquisirne il problema e dopo in qualche caso risolverlo. È così, Tore. È così, purtroppo è così. Un lavoro come Antonio mi insegna, perché lui fa un lavoro un po' particolare, che è quello, e direi che non è che buccia l'arancia, come dice, se buccia il gioco, anche lì devi stare molto attento ad avere sempre la mentalità di fare, di volare, soprattutto rubare anche agli altri, perché magari vedi una cosa, poi se un angolo tu lo fai a 45 gradi, il guido lo fai a 43 gradi, ma anche la tafferisce ancora a 43 gradi. Gli ho messo due cugne, usci, una gazzata, e quindi sai, bello, bello se riesco a farlo anch'io, e lo vado pure Antonio, non mi fa mica molto. In tutte le cose, ricordiamocelo sempre, mai nessuno è andato imparato. Ci hanno sempre insegnato gli altri a fare le cose, perlomeno io parlo per me. Perché in tutte le cose c'è sempre qualcuno che ne sa più dell'altro, in tutti i settori. Mai nessuno deve dire, ma io sono più bravo di te, nel modo più assoluto. Io ho una squadra di 8 persone, nella mia squadra non ho mai sentito dire, io sono più bravo di te, compreso me, io sono uguale a loro, preciso e identico, e forse è per quello che nel lavoro ci hanno apprezzato per quello che so, perché non ho mai lavorato a nessuno a differenza di altre cose, capito? Siamo tutti uguali. Io posso darti un consiglio perché sono il tuo responsabile, però se tu ritieni che quel consiglio che io ti sto dando non è valido, me ne devi dire Claudio, non va bene. Secondo me possiamo farlo così, proviamo a farlo così. Io sono d'accordissimo, non è come dire che tempi e li fa uscire fuori, ti comando io, tu lo comandi l'ultra e lo fai uscire, punto e basta, non esiste, come lavoro io non esiste, va bene tu. In effetti si conferma tutto quello che hai detto, perché c'è sempre da imparare, e non hai imparato da solo, perché c'è sempre stata una persona più superiore di te, nel senso buono, che ti ha messo a imparare un mestiere che si sa di per sé che è difficile, deve avere, a parte tutto, devi esprimerti bene sul lavoro, uno, e poi ti deve piacere anche come tipo di lavoro che tu fai, perché se il tipo di lavoro che fai non ti piace, non te chi è più avanti di te in quegli anni e ha avuto una certa esperienza sul lavoro, ti cerchi di imparare il lavoro, e se tu non hai idea di impararne, vai tranquillo che non vai da nessuna parte. E in effetti confermo quello che hai detto, c'è sempre chi ti ha portato su quella strada e ringrazi sempre la persona che ti ha portato su quella strada, che ti ha dato l'opportunità di imparare il mestiere, perché oggi come oggi si sa com'è il lavoro. E così io ringrazio sempre chi mi ha messo per la prima volta la parete in mano, perché c'è sempre da imparare, ci sono sempre materiali nuovi, guarda. Diciamo, Claudio, c'è sempre da imparare, ogni giorno ci sono materiali nuovi e via dicendo, però se uno ha buona volontà di imparare le cose, va tranquillo che va avanti. Che oggi come oggi, ripeto, è difficile, non è da tutti che ha parole. La va di tutti. Anto, vieni adesso, ti faccio parlare con la vestiolina che c'ho vicino, che mi sta apprezzando, fammi dire, fammi salutare. Che parola, fammi salutare Antonietto, avanti Antonietto. Ciao Antonio, come va Antonio, come va? Bene. Stiamo facendo un discorsetto in compagnia di Claudio, Claudio ti saluta il figlio di Tone, Antonio, avanti Claudio. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Quanti anni hai? 7 e mezzo. Sì, caspita, sei già un giovanotto, eh? Sì. Vedi, quando diventi grande ti faccio finatore con mia figlia bella. Va bene. Così siamo a posto, la famiglia cresce e siamo tutti ok. Sì, ma tu non è che i meriti siano tutti miei, ma io stiamo parlando di meriti e di tutti quelli che lavorano. I meriti sono sempre di chi veramente ha voglia di lavorare, capito? Di chi ha voglia di lavorare e di chi ha voglia soprattutto di imparare. Perché ci sono quelli che ti insegnano le cose, ma se tu non le apprendi o non le amati, la futti anche attraverso lo stipendio, e allora iniziamo a difficoltà, perché lì ci può essere un Claudio, un Antonio, un Giovanni, un Peppino che dice ma avevo imparato, no, a me non me la futti nulla, io oggi ho imparato e se ne frega. Se allora la da parte che tu non sai fare quel lavoro dove ti sei presentato, perché anche da noi sai, capita che ad esempio le frate hanno preso dei novantini, come così si dice, no? Di quelle persone a 3 mesi che servono per sostituire quelle a tempo indeterminato, quindi dei contrattisti a scadenza. E hanno fatto luglio, agosto e settembre, terminano il 30 settembre. E non è possibile che in due mesi, che tu stai sempre facendo la stessa cosa, non non riesci ancora a fare un calcolo di metro cubo e litro a secondo. Avrò fatto vedere, io penso, un centinaio di volte, l'ho fatto davanti a me, l'indomani mi telefono, non riesco a fare il calcolo. Quindi, non sono così, lo sei pronto a chi? Giù e vicino, così, oppure te ne freghi. O quello che ti hanno detto non così, l'ho preso come niente. A me quando mi dicevano le cose, io c'avevo come agenda appresso. Io lavoro con te, in giro, per i cantieri, perché ho sempre fatto, da quando sono entrato in mano ho fatto il conduttore e l'assistente, e ancora lo sto facendo. E tutto quello che mi dicevano, quelli che ne sapevano più di me, quindi i responsabili, i miei responsabili, o anche i miei colleghi, io segnavo tutto. Te lo faccio vedere quando voi, avete questa agenda che mi ha fatto vedere, io segno tutto, ancora oggi, uno della forza ancora oggi, un ingegnere, davanti a me, quadrizzato, aspetti, non è piano, perché c'è un po' di sciatore alle primiste, non capisco niente, mi dica questo, sì, e prendo appunti, questo, che, okay. Quanti pollici è questo, quanti pollici è quello, quanto entra qui, quanto entra là, e segni. In modo che se uno poi ti fa una domanda, un domani, fra 10 giorni, fra un mese, e non so magari il pantonio, se non metto più, vediamo l'agenda, cosa ho scritto, ecco, questo tubo passa lì, e poi tutti scritto. Vengono le vuole in testa, lui mi ammazzano, mi chiama, lo sai che non mi ricordo come si faceva quel calcolo. E siamo sempre distanti, perché qualche mattina che siamo vicini con un colpo di baraccato. Guarda, per salutarsi, no? E beh, in effetti ci deve scrivere un po' tutto, e anche io sono di quel parere, quando una cosa mi viene male a ricordare, io prendo agenda, scrivo, faccio, noto, e no, non è anche un bene quello, la verità si ricade, guarda, è un bene, perché almeno sai un domani, se ti fai una domanda importante, aspetta un attimo. Ah, questa domanda, vabbè, passa così, va bene, ce l'ha scritto e tutta un'altra cosa, capito? No, secondo me non ne hanno idea di né di imparare né di niente, lasciamo perdere i soldi, perché uno dopo 2 mesi che fa lo stesso lavoro e non riesce a percepire quello che sta facendo, vuol dire che non ne ha idea, guarda, lasciamo perdere, non ne ha idea. Riprendi tu, bravi, e fai girare per tore, se no... il semirimorchio, e anche lì il problema è che vengono non sollevare o spostare la piscina dall'altra parte. Però sicuramente le disposizioni sono cambiate, perché so che sono cambiate lì da quando è entrato a far parte una certa persona come assistente lavori, e quindi sicuramente lo troverai sempre così. Tu la prossima volta non ce la farai girare a posizionare il cassone, di cui un colpo la becerina lì davanti in terra, avrai ringraziami. Davvero, guarda che stamattina, cioè, il mio collega ormai è pratico, che io la seconda volta che ci vado, però la bicilina lì, cavolo, può corrompere scatto, perché algo puoi fare in una manovra soltanto, prendere, sistemare la cassa lì, è una cosa allucinante. Poi dice, no, non dovete rovinarmi l'asfalto. Dovete rovinarmi l'asfalto. Mi ferro, lui la mette di piede a vedere se devo schiacciare, come fai a non posizionarlo? Quando lo passi che è agganciato per posizionarlo, devi per forza sganciarlo, la cima di morchio, devi sganciarlo, abbassarlo di culo, quindi appoggio al rullo, e tu devi andare avanti col camion e man mano sganciare dal gancio. Che affronto gioco. Mamma mia, non me ne dire troppo piacere, perché gente così incompetente che è diventata lì dentro, meraviglia, ci ho fatto un po' di anni e li ho lasciati sani, cazzo, ma non credo che siano diventati tutti così malati, che se li prendi a tu. E purtroppo così. Sì, torniamo al discorso che non... Secondo me non mi hanno idea di portare avanti il lavoro, di imparare, di accompagnarmi, no, proprio un menefreghismo totale, guarda, 101%. E allora, a breve, poi sono diventato tutto esaurito, hanno disegnato, mi ricordi? Ma non ci voglio credere, perché sono tutte persone che hanno una grandissima esperienza, non è che posso sottovalutare così adesso solo perché non ci sono io, ma chi ha preso il mio posto è, dove non so se ha avuto modo di conoscerlo, Antonio, che è un perito chimico, una persona molto capace, è stato mio lavorato assieme per tanti anni, a Castelsardo, a Belfuas, siamo grandissimi amici, beh, ci sentiamo spesso per qualsiasi problema. Io consulto lui consulta me per scambiarci due trovate. Non ci credo che Antonio li stia muovendo così, cioè o se ne ha fottendo il muro, perché già l'hanno messo lì e lui non ci voleva rimanere a Cazzo al Sardo. Però non ci voglio credere che sono diventati così rincoglioniti, cazzo, come mai non sanno, un cassone abbassa il posteriore con rullo e poi praticamente andando avanti col seme di mucchio le sgancia direttamente, quindi lo devi fare appoggiare a terra per sganciare, che tu meglio vuoi pigliare e appoggiare uscire come te la gru, no? Ci mancherebbe altro, ti conviene venire con la gru, lo prendi e lo appoggi direttamente senza farlo scarrabile. Sì, ma davvero, no, ma questa cosa era una cosa vecchia, era una cosa di un po' di tempo fa, forse dell'inizio, infatti volevano la motrice perché la motrice riusciva a entrare dentro e così e così. Io stamattina ho avuto un po' di difficoltà, la seconda volta che ci vado, non è che sono tutti i giorni come con il mio collega, che ormai è entrato, come si dice, ha imparato il modo, e poi dopo io quel semirimorchio non lo adopero di frequente, io bene o male adopero altri semirimorchi che lui, vedi, lui non è adatto, cioè non è capace come sono capace io, e ognuno ha le cose sue, lui ce l'ha agganciato quasi sempre, quindi meno male sa tutti i segreti, io lo aggancio saltuariamente, quindi lo so usare, però lo aggancio saltuariamente, ma c'è quel coso lì che in alcune cose che vado a fare non so certi segreti. Sì, allora con il segreto della scalabra è come difficile, dottor. Io non credo segnare niente, ma una volta, io non so con chi siete, se sei con Pippo, con Leoni o con Spiga, con chi siete, con Spiga. No, l'unico che non hai letto, De Montis. E la vacca boia, è un algherese. Sì, con l'algherese. Pensavo non ce l'ho messo più a parte De Montis, sì, conosco molto bene. Sapevi che era morto, il vecchio sì. Eh sì, era lui proprio, lui era un'altra cosa, sì, proprio lui è proprio quello che mi è dispiaciuto di più di tutta l'azienda. Se chiedi di me al figlio ci conosciamo molto bene, abbiamo avuto qualche contatto lì a Romero, anche Romero con lo scarabile ogni volta venivamo per trovare ragione, alla fine a trovare tu qua dentro non puoi entrare con quell'uno perché ne butti il cacciato. E due, perché qua c'è un terrapieno. Quando tu cominci a entrare con uno scalabile vuoto, mi appoggio lo scalabile, te ne vai, mi sta anche bene. Ma se devi caricarlo all'interno col ragno, e poi devi uscire, se non vedo qua metto come te sia un poco pericoloso, perché c'è un terrapieno, almeno non so se mi è andato un depuratore o meno. E poi gettato in cemento, se l'ha fatto bene, se non c'è dubbio, ma trovai un bel mare. E allora abbiamo deciso di metterlo fuori e quindi io le facevo trovare i fanghi nel piazzale del muretto dove c'è il cancello, lui con ragno, con la paletta a ragno, lo prendeva lì e lo posizionava nel cassone senza fare lo scarabile, direttamente veniva col cassone attaccato. De Montis, bravissima persona quell'uomo, il vecchio era un grande, lui ha seguito tutto sempre Monte Agnese, l'ha sempre fatto lui, poi non mi ricordo se si era ammalato oggi di colpo, infatti non me l'ha mai detto, ma era prima d'estate, era morto, non ricordo perché era Monte Agnese. Ero appena arrivato lì a Monte Agnese io. La generale del pianto Antonio mio, madre di Dio sempre stradas. ma sempre parte il tuo lavoro, Claudio. È così. Certo mi avrei visto delle pelle delle cotte, delle crude. Tutto di più oggi vicino, tu. Però sempre con grande intelligenza. Se vedi fatti cieco, se senti fatti sordo. Il mio motto è sempre quello, ancora oggi non ho mai avuto quel problema di andare a sputtare dove lavori o andare a mettere ancora un colletto. Io ho sempre detto a chi sta a fianco a me, a chi lavora con me, a chi collabora, ai miei colleghi di lavoro. Quando abbiamo un problema prima di arrivare ad avere problemi con gli uffici, parliamo di noi. Se una cosa possiamo risolvere, la risolviamo noi, per i cazzi nostri. Mai andare immediatamente, boom, e buttare l'amo dove il pesce può abboccare. Perché se abbocca il pesce, allora ci piangono tutti. Perché non lo sanno. Io dico sempre se abbocca il pesce, è il mio dirigente. Il mio dirigente è il primo a prendere che ci conosciamo io, quindi automaticamente voi prendete i colpi voi, perciò se possiamo risolvercelo noi, il problema lo risolviamo noi, siccome io sono di quelli molto, ma molto anche troppo alla mano, a chi mi rivale di tutti i rigori, sempre in modo scherzoso, e perciò non mi è mai successo. Infatti a volte a me mi chiama, ma lei non mi chiama mai, lei si preoccupi quando io la chiamo. Non si preoccupi se io non la chiamo, si preoccupi se la chiamo, perché se la chiamo io vuol dire che sono problemi grossi. Se non la chiamo, torna tranquilla e sereno, non le posso sempre così, dai dirigenti miei. Ma è giusto, quando si, ripeto, quando si ha davanti una persona che fa tutti i controlli, fa il suo dovere, fare i diritti dell'impresa, dell'azienda è più che sufficiente, che motivo c'è di chiamare, ma è normalissimo quello. Ebbene, Fede ha ragione, lui si deve preoccupare se ce lo chiami, vuol dire che i problemi sono simili e c'è proprio da lontano. È così, avanti tu. Infatti, ti stavo dicendo, sì, allora è possibile che ci siamo conosciuti allora, in quel periodo, perché io in quel periodo venivo molto lì a Monteagnese, avrei conosciuto anche Spanetta, che quella era un mio commilitone, in quel periodo è morto, gli era venuto un infarto proprio. Avevo appena caricato i fanghi e era già pronto il rimorchio per scendere giù a Cagliari. Livello, ma non dobbiamo più far pensare il livello, capito? Non dobbiamo che fuggi, così, una volta che ho piombato, un cugni, un blocchi, mettere il cagnetto, un bischimone, per un ricontrolli, una cosa sicuro, in fondo i bocchi, e li butti a c'è un torrato, io qua ho fatto così.